Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. L'Europa sta vivendo una rivoluzione demografica che nessuno aveva previsto e nessuno sta governando, scrive Christopher Caldwell, editorialista del Financial Times, nel suo recente libro L'ultima rivoluzione dell'Europa, dove prende in esame gli effetti dell'immigrazione di massa nel vecchio continente. Chi difende l'apertura incontrollata delle frontiere sostiene che senza la forza lavoro proveniente dai paesi extracomunitari l'Europa sarebbe paralizzata. Ma è evidente che il melting pot statunitense non si è riprodotto anche in Europa, dove spesso gli immigrati, quando raggiungono un numero critico, faticano ad accettare i valori di tolleranza e uguaglianza sui quali si fonda la cultura europea del dopoguerra. E il problema risulta ancora più evidente quando ci si confronta con la cultura islamica. L'opinione dei musulmani è difficile da interpretare, perché la maggior parte delle rivendicazioni politiche musulmane può esprimersi in due modi, ragionevole o intimidatorio. In genere, i musulmani partecipano con estrema correttezza al sistema politico dei paesi in cui si sono insediati. In nessun paese c'è carenza di interlocutori pacati, non violenti e patriottici. Le questioni che riguardano direttamente l'Islam non rientrano tuttavia nel campo d'azione dei politici e sono spesso regolate dall'intimidazione. Vengono risolte spesso in ambito familiare, con omicidi d'onore e violenza contro le donne, e tra giovani maschi, con le attività delle gang criminali. I nativi quasi non se ne accorgono neppure. Paradossalmente, più i musulmani si sono integrati, più questo tipo di intimidazione è dilagata. La fatwa dell'Ayatollah Khomeini contro Salman Rushdie costituì una svolta epocale per due motivi. Innanzitutto, un atto del genere metteva in discussione per la prima volta da secoli la sovranità europea sui propri cittadini. Le implicazioni della fatwa erano queste. Rushdie poteva anche definirsi un inglese, ma restava innanzitutto un musulmano. Doveva rendere conto all'Islam dell'apostasia di cui i suoi versetti satanici costituivano una prova. Era una cosa seria. Secondo il Corano, l'apostasia deve essere punita con la morte. In nessun paese occidentale la maggioranza dei musulmani ritiene che tale pena debba essere messa in pratica. Il tasso più alto di adesione a questa forma di giustizia draconiana è tra i giovani musulmani britannici, dove i favorevoli sono il 36%. Per uccidere una persona, però, non occorre la maggioranza. Uno dei motivi per cui gli europei non hanno fatto molto caso alle inclinazioni politiche delle minoranze etniche è la fede quasi superstiziosa che essi nutrono nel meccanismo decisionale democratico. Benché la gente sia preoccupata per ciò che potrebbe succedere una volta che le minoranze etniche costituiranno il 50,1% della popolazione di alcune città, non le balena il dubbio che qualcosa possa andare storto anche prima che quel momento arrivi. Le minoranze sono certamente in grado di cambiare i paesi, di conquistarli. Nel 1917 in Russia i bolscevichi erano probabilmente meno numerosi degli islamisti in Europa oggi, fino a quando ci saranno imam influenti e pazzi organizzati che crederanno nella necessità di rinforzare le proprie conoscenze teologiche con l'intimidazione. Nessun musulmano o ex musulmano, per quanto ben assimilato, potrà scrivere o dire alcunché senza sentirsi minacciato da gente pericolosa. Quando la rivista olandese HP De Tijd pubblicò un articolo su alcuni musulmani convertiti al cristianesimo, la maggior parte degli intervistati pretese di rimanere nell'anonimato. All'inizio del 2008, appena prima di essere battezzato per diventare cattolico, il commentatore italiano nato in Egitto, Magdi Alam, dichiarò che in Italia vivevano migliaia di cristiani segreti, musulmani divenuti cattolici o protestanti, ma che tenevano nascosta la propria fede religiosa per paura di essere uccisi. La fatwa contro Rushdie non mandò soltanto un messaggio ai musulmani europei. Essa fece anche sì che le pretese dell'Islam insidiassero gli europei non musulmani. Fino a quel momento l'ostilità verso la libertà di espressione era rimasta circoscritta. Poteva essere intesa come imposizione, con metodi più o meno arretrati e violenti, delle norme interne di una comunità. Non fu più così. L'idea di condannare a morte Rushdie non era partita dall'Iran, bensì dai musulmani della città di Bradford, a forte presenza musulmana. Rushdie però non era un membro della comunità musulmana di Bradford. Era uno stimato scrittore londinese nato in India. Se una sentenza di morte poteva essere pronunciata contro di lui, per non parlare di tutti i suoi editori e traduttori, era evidente che i costumi della comunità di immigrati ora influenzavano in parte anche la vita pubblica britannica. Nel 2005 la giornalista ventenne marocchino-olandese Asna El Maroudi smise di tenere la sua rubrica su un sito giovanile del giornale nazionale NRC Handelsblad quando cominciò a ricevere minacce di morte per alcune cose che aveva scritto sulle tensioni tra arabi e berberi. Era una questione tra immigrati o una minaccia alla libertà di stampa rivolta a uno dei giornali più importanti d'Olanda? Entrambe le cose, naturalmente, ma tutti coloro che erano troppo spaventati per reagire liquidarono la faccenda adottando la prima spiegazione. Le comunità di immigrati erano diventate troppo numerose per rimanere in quarantena. Ma il problema era più grande di una semplice questione di proporzioni. Esso derivava anche dai successi delle politiche di integrazione, non solo a livello internazionale, nella forma della globalizzazione, ma anche nazionale. Nella generazione precedente, tra gli scrittori di spicco europei, non c'erano personaggi come Salman Rushdie e Asna El Maroudi. Le comunità di immigrati, d'un tratto, non erano più soltanto in Europa, bensì erano diventate l'Europa stessa. L'Europa, intesa come l'insieme dei suoi cittadini musulmani e non musulmani, era ormai oggetto di intimidazione da parte di religiosi musulmani e dei loro seguaci. I nativi europei sentivano che la loro posizione, sul piano demografico e della determinazione, si stava indebolendo. All'inizio del 2006 fu assegnata una scorta armata a una parlamentare italiana dichiarata nemica dell'Islam da alcuni capi religiosi iraniani. Non si tratta di casi gravi o estremi, ma di semplici esempi dell'effetto raggelante che l'Islam cominciò ad avere sui giornali, sulla legislazione e sulle conversazioni abituali tra la gente quando si toccava all'argomento Islam. Le proibizioni andarono aumentando così come le categorie di persone a cui erano rivolte, in base a una serie molto chiara di ragionamenti. 1. I musulmani devono rispettare la legge islamica. 2. I membri delle comunità musulmane, anche se non credenti e perfettamente integrate nella cultura nazionale autoctona, devono rispettare la legge islamica. 3. I non musulmani devono rispettare la legge islamica. 4. I non musulmani devono essere addirittura al di sopra di ogni sospetto quanto a rispetto della legge islamica. Ci sono voluti 50 anni di immigrazione di massa prima che gli europei cominciassero a sentirsi minacciati dalle loro minoranze. Quando la gente comincia ad agire per paura e non più per convinzione o generosità, di solito non si rende conto di questo cambiamento delle motivazioni e non è disposta ad ammetterlo. Per anni gli europei hanno manifestato un'evidente inquietudine nei confronti delle reali inclinazioni politiche dei musulmani che vivevano tra loro. Gli attacchi dell'11 settembre 2001, organizzati in parte ad Amburgo, Duisburg e in altre città europee, confermarono i timori inespressi. Fu un giorno di festa per buona parte del mondo musulmano, persino in certe zone dell'Europa musulmana, per esempio in Belgio e nella città britannica di Halifax, nel West Yorkshire. Nella località olandese di Ede ci fu chi esultò per le strade. Un'indagine condotta dalla rivista Contrast scoprì che poco meno della metà dei musulmani olandesi si sentiva in totale sintonia con gli attacchi. Un quarto dei musulmani francesi era contrario ad aiutare gli Stati Uniti nella caccia ai terroristi. Molti musulmani hanno posizioni ambivalenti riguardo alla lotta tra Occidente e Islam estremista. L'ambivalenza è evidente soprattutto nel Regno Unito. Il paese europeo dove i musulmani sembrano meglio integrati nella politica e nel mondo del lavoro. Nel 2005, 9 giorni dopo l'attentato alla metropolitana londinese, l'allora primo ministro Tony Blair denunciò l'ideologia malvagia che motivava gli estremisti musulmani. «Pretendono l'eliminazione di Israele», disse Blair, «il ritiro di tutti gli occidentali dai paesi musulmani, la fondazione di stati governati a tutti gli effetti dai talebani e l'imposizione della legge della Sharia nel mondo arabo in vista di un califfato comprendente tutte le nazioni musulmane. Inutile chiedersi quale sarebbe la natura di tali stati. Il problema stava nel fatto che non tutti i musulmani britannici erano contrari alla prospettiva. Praticamente tutte le indagini statistiche rivelano che i musulmani britannici hanno posizioni decisamente più estreme rispetto al resto della popolazione islamica europea. A dire il vero, sono più estremisti dei musulmani di molti paesi islamici. Un sesto dei musulmani britannici ritiene giustificati gli attacchi suicidi contro obiettivi militari nel Regno Unito. Quasi due terzi di loro, il 63%, considerano gli occidentali arroganti, un livello di sfiducia più alto di quello registrato in Nigeria, Indonesia e Turchia. Nel 2004, la prima bozza di un rapporto del Ministero degli Interni britannico su giovani musulmani ed estremismo evidenziava come la principale causa di rabbia tra i giovani fosse la sensazione che in politica estera la Gran Bretagna usasse due pesi e due misure, predicando la democrazia e, al contempo, opprimendo la Umma, la comunità dei credenti, o tollerandone l'oppressione, come per esempio in Palestina, Iraq, Afghanistan, Kashmir, Cecenia. La stragrande maggioranza dei musulmani disapprova qualsiasi intervento nel mondo arabo e musulmano. Tra il 64 e l'80% di essi, a seconda dei sondaggi, si proclamarono contrari alla partecipazione britannica alla guerra in Afghanistan. Gli europei non erano tuttavia nella posizione di stigmatizzare tali opinioni come tradimento e molti di loro non erano inclini a lamentarsene. In fin dei conti, alle manifestazioni dei musulmani contro la guerra parteciparono anche cittadini laici e cattolici. Come disse un parlamentare tedesco, i giovani di sinistra sono orgogliosi di essere tedeschi perché non ci sono soldati in Iraq. Con ciò si riferiva a tutti i giovani, non solo ai musulmani. Perché mai si sarebbero dovuti punire i musulmani se avevano manifestato opinioni che molti europei condividono con orgoglio? Da una parte esiste il diritto al dissenso, dall'altra, a certi immigrati musulmani questo diritto è stato garantito troppo presto, prima cioè che divenissero cittadini e che imparassero a cogliere la distinzione tra dissenso e sovversione. Sicché l'Europa si è ritrovata ad un tratto alle prese con un problema grave, forse l'ultimo che si sarebbe aspettata di dover affrontare all'inizio del XXI secolo, il ritorno dell'antisemitismo. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Christopher Caldwell, L'ultima rivoluzione dell'Europa, l'immigrazione, l'Islam e l'Occidente. Garzanti Editore, 440 pagine, 20 euro. Letture di Radio 24. A quasi un secolo di distanza dal genocidio degli armeni ad opera dei turchi, il presidente Erdogan reagisce ancora in malo modo a chi gli impone di riconoscere che si sia trattato di pulizia etnica. Aprile è il mese più crudele per il popolo armeno, che ogni anno in questa stagione è costretto a subire il peso insopportabile della tragedia e dell'umiliazione. La tragedia è la commemorazione del massacro dei suoi antenati, iniziato nell'aprile del 1915, quando il califfato ottomano lanciò una campagna governativa mirata all'eliminazione degli armeni. L'umiliazione è sentir ripetere dalle autorità turche, anno dopo anno, che tali vergognosi eventi non sono mai accaduti e che i massacri non costituirono un genocidio. Quest'anno la Commissione Affari Esteri del Parlamento americano a Washington e il Parlamento svedese si sono uniti al crescente numero di istituzioni politiche che hanno deciso di chiamare il massacro con il nome che gli spetta. Cito dalla dichiarazione inviata in risposta da Recep Tayyip Erdogan, l'attuale primo ministro turco e capo del partito islamista al potere: nel mio paese vivono 170.000 armeni, di cui 70.000 sono cittadini turchi. Pertanto tolleriamo la presenza di 100.000 armeni irregolari. Domani, se necessario, potrei dire a questi 100.000: è ora di far ritorno nel vostro paese. Per quale motivo? Perché non sono cittadini turchi. Non ho nessun obbligo di ospitarli nel mio paese. Cerchiamo quindi di chiarire quali sono le opinioni del capo di Stato della Turchia. Se le assemblee democratiche osano menzionare la pulizia etnica degli armeni avvenuta nel secolo XX, mi occuperò io personalmente di completarla nel XXI. Da dove vogliamo iniziare? I lavoratori stranieri di origine turca vivono oggi numerosi in tutta l'Unione Europea e la Turchia non nasconde le sue ambizioni a entrare a far parte della comunità europea. Come reagirebbe il mondo se un primo ministro europeo ordinasse la deportazione in massa di tutti i turchi? La sfuriata va inoltre a confermare la personalità alquanto instabile di Erdogan. A Davos, nel gennaio del 2009, il premier turco ha abbandonato in un accesso d'ira i colloqui con il capo della Lega Araba e il presidente israeliano Shimon Peres, dopo aver strattonato, paonazzo in volto, il braccio del moderatore che tentava di calmarlo. In quell'occasione aveva urlato che gli israeliani a Gaza sapevano fin troppo bene come ammazzare. Secondo alcuni nazionalisti turchi, Erdogan ha perso il controllo perché non sopportava la presenza del moderatore del dibattito, David Ignatius, del Washington Post, egli stesso di origine armena. Poco tempo dopo, al vertice NATO in Turchia, Erdogan si è lasciato andare a un altro scatto di ira, alla proposta di eleggere a capo dell'Alleanza Atlantica l'ex primo ministro danese Anders Fogh Rasmussen. In questo caso saranno state forse le vignette blasfeme pubblicate in Danimarca a turbare il fragile equilibrio di Erdogan. In Turchia, la negazione imperterrita del genocidio armeno ha avuto conseguenze politiche e culturali deplorevoli. Il più celebre scrittore turco, Orhan Pamuk, è stato trascinato in tribunale nel 2005 per aver riconosciuto il ruolo della Turchia nella distruzione dell'Armenia. Se non fosse stato insignito del premio Nobel, le cose si sarebbero messe molto male per lui. L'editore turco-armeno Rant Dink, anche lui processato sotto la legge di Stato che vieta la discussione del passato, è stato colpito a morte per strada da un assassino. Più tardi, fotografato in compagnia di poliziotti complici e sghignazzanti. L'antico crimine, in altre parole, sfida ancora oggi tutti i tentativi di copertura e la negazione si nutre costantemente di nuovi delitti. Nel 1955 a Istanbul, in un pogrom sponsorizzato dallo Stato, furono eliminati quasi tutti gli ultimi armeni della capitale, assieme a migliaia di ebrei, greci e altri infedeli. Il concetto di identità turca, codificato dalla legge, è stato utilizzato anche per negare i diritti e annientare la lingua della grande popolazione curda del paese. A queste condizioni, l'ingresso nell'Unione Europea resta in salita. La storia non perdona. I morti armeni non smetteranno mai di far sentire la loro voce, né dovremmo farlo noi, in loro ricordo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Christopher Hitchens, Genocidio armeno negato, la pericolosa ossessione di Erdogan, dal Corriere della Sera del 7 aprile. La lettura non è un'attitudine naturale dell'uomo, bensì un'invenzione che risale a 6.000 anni fa. Ma in un'epoca come quella attuale, dove la cultura digitale privilegia l'immagine alla scrittura e dove la ricerca delle informazioni avviene in modo rapido e intermittente, non c'è il rischio che le prossime generazioni si disaffezionino al cuore stesso del processo della lettura, ovvero la capacità di pensare per sé? È il tema del nuovo libro della neuroscienziata Marianne Wolf, che dopo aver analizzato i primi sistemi di scrittura, illustra i processi che portano un bambino a imparare a leggere. Immaginate questa scena. Un bambino piccolo in grembo a un adulto ascolta rapito il flusso delle sue parole, simile allo scorrere di un ruscello. Parole che narrano di fate, draghi e giganti di terre lontane mai immaginate prima. Il cervello del bambino comincia a prepararsi a leggere molto prima di quanto credevamo, adoperando quasi tutto il materiale grezzo della prima infanzia, sensazioni, concetti e parole, e lo fa imparando come usare le preziose strutture che formano il suo sistema di lettura universale. Strada facendo, il bambino incorpora molte intuizioni nella scrittura che la nostra specie ha appreso, un passo dopo l'altro, in più di 2000 anni di storia. E tutto comincia col bambino sorretto da un braccio, comodamente in grembo a una persona cara. Decennio dopo decennio, le ricerche hanno dimostrato che la quantità di tempo trascorsa dal bambino ascoltando i genitori o altre persone di fiducia che gli leggevano ad alta voce è un buon predittore dell'abilità di lettura che raggiungerà anni dopo. Perché? Esaminiamo meglio la scena descritta poc'anzi. Seduto, un bambino piccolo guarda le illustrazioni a colori di un libro. Ascolta fiabe antiche o nuove favole, capisce a poco che le linee sulla pagina formano lettere, le lettere parole e le parole storie che è possibile leggere e rileggere. Questa scena iniziale contiene la maggior parte delle premesse cruciali per lo sviluppo della capacità di lettura del bambino. Quella del bambino che impara a leggere è una storia di fate e incantesimi, oppure di occasioni perdute e carenze che si potevano evitare. Due scene che ci raccontano due infanzie assai diverse. Un'infanzia in cui succede quasi tutto quello che ci auguriamo la prima. Un'infanzia in cui poco viene raccontato e poco della lingua materna viene appreso la seconda. In quest'ultimo caso, il bambino comincia a restare indietro prima ancora che l'apprendimento della lettura sia veramente cominciato. La cura dei neonati prematuri ha messo in risalto l'importanza del contatto fisico per il loro sviluppo. Qualcosa di simile vale per lo sviluppo ideale della lettura. Non appena ha modo di stare in grembo alla persona che si prende cura di lui, il bambino comincia ad associare l'atto del leggere alla sensazione di essere amato. In una surreale e commovente scena del film Tre scapoli e un bebè, l'attore Tom Selleck legge i risultati delle corse di cani al bebè affidatogli. Tutti gli rimproverano di traviarlo, ma è vero il contrario. A un bambino di 8 mesi si possono leggere i risultati delle corse di cani, le quotazioni di borsa o Dostoevsky, anche se sarebbe più indicato un libro illustrato. Perché Buonanotte Luna, il libro di Margaret Wise Brown, ha catturato la fantasia di milioni di bambini che sera dopo sera implorano i genitori di leggerlo ancora una volta? È l'uso di immagini di oggetti familiari in una stanza, la lampada da notte, i guanti, la scodella della pappa, la sedia a dondolo, tutti oggetti che appartengono al mondo dell'infanzia? O è la curiosità suscitata dal topino che a ogni pagina si nasconde in un punto diverso? O è la voce di chi legge, che si abbassa poco a poco fino all'ultima pagina del libro? Tutte queste ragioni, e altre ancora, sono un inizio ideale del lungo processo che alcuni studiosi chiamano alfabetizzazione precoce o emergente. Associare l'ascolto della lingua scritta e il sentirsi amati dà a questo lungo processo le fondamenta migliori. Nessuno scienziato cognitivo o ricercatore in ambito pedagogico avrebbe saputo escogitare qualcosa di meglio. Il passo successivo riguarda la comprensione delle illustrazioni. Il bambino impara a riconoscere le figure di alcuni libri come testimoniano le orecchie alle loro povere pagine. Alla base di questo sviluppo c'è un sistema visivo che dai 6 mesi funziona alla perfezione, un sistema dell'attenzione che ha di fronte una strada ancora lunga verso la maturità e un sistema dei concetti che ogni giorno fa qualche passo avanti. Col trascorrere dei mesi cresce la capacità di attenzione del bambino e con questa anche la sua conoscenza delle immagini familiari e la sua curiosità per quelle nuove. Man mano che le capacità percettive di attenzione dei bambini aumentano, questi si cimentano con la più importante premessa della lettura: l'inizio dello sviluppo linguistico e l'intuizione fondamentale che le cose, come i cavallini e i cagnolini, hanno dei nomi. Può essere difficile per un adulto rinunciare momentaneamente al proprio modo di vedere la realtà quotidiana per immaginare che il bambino piccolo ancora non sa che ogni cosa al mondo ha un nome. Con molta gradualità, i bambini imparano a etichettare le parti salienti del loro mondo, cominciando di solito da chi si prende cura di loro. Ma l'intuizione che ogni cosa ha un nome preciso viene dopo, normalmente verso i 18 mesi, ed è uno di quegli eureka dei primi 2 anni della nostra vita che facilmente passano inosservati. La qualità che rende speciale questa intuizione è basata sull'abilità del cervello di collegare 2 o più dei propri sistemi, pervenendo a qualcosa di nuovo. Alla base di questa epifania infantile c'è la capacità del cervello, già in età precoce, di collegare e integrare l'informazione proveniente da vari sistemi: vista, processi cognitivi e linguaggio. Oggi gli studiosi del linguaggio infantile, come Jean Bercot-Glezon, sottolineano che ogni volta che un bambino impara ad attribuire un nome, non importa se a una persona cara, al gatto di casa o all'elefante Babar, ha inizio anche un vasto cambiamento cognitivo che collega i sistemi in sviluppo della lingua parlata ai sistemi in sviluppo del pensiero concettuale. Grazie all'attribuzione dei nomi, il contenuto dei libri comincia a essere più importante perché il bambino può partecipare alla scelta su ciò che sarà letto e iniziano importanti dinamiche. Più si parla al bambino, più egli capisce la lingua parlata, più gli si legge, più comprende i fenomeni linguistici che incontra e più ricco diventa il suo lessico. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Marianne Wolfe, Proust e il calamaro, storia e scienza del cervello che legge. Vita e pensiero editore, 296 pagine, 20 euro.